America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, lo scontro del Wisconsin. Fra poco apriranno le urne, ci saranno elezioni molto importanti sia per i democratici che per i repubblicani. E devo dire, soprattutto in campo repubblicano, ormai c'è questa coalizione anti-Trump. Pensate che 6 commentatori radiofonici importanti sono coalizzati per cercare di fermare Trump. Trump in effetti potrebbe perdere. In Wisconsin si trova di quasi 7 punti in svantaggio rispetto a Cruz. Ha più delegati di Cruz, quasi il doppio, però la strada è ancora lunga. Anche Hillary Clinton è in difficoltà, perché Bernie Sanders è riuscito a risalire una corrente contraria. Non solo, è riuscito a raccogliere molti più soldi di Hillary in questo trimestre. Pensate che la ex First Lady ha raccolto circa 74 milioni di dollari nei primi 3 mesi del 2016. Sanders ne ha raccolti 109, dunque potrebbe essere in ascesa, cerca anche di insidiare Hillary qui a New York State. Vi racconterò delle elezioni in Wisconsin domani. Adesso vorrei parlare degli scandali di corruzione, intanto i Panama Papers naturalmente, ma anche quello che è successo in Brasile con Dilma Rousseff, che rischia l'impeachment per aver, come dire, mascherato dei dati pubblici per farsi rieleggere, dicendo che l'economia andava molto meglio di quel che si pensava, e per aver coperto, ma questo è un caso diverso, Lula, l'ex presidente, il suo predecessore, è invischiato in uno scandalo di fondi neri legati a Petrobras, la società petrolifera brasiliana. Ecco, con me i microfoni di America 24 per discutere proprio di questi scandali, quello che per noi è il massimo esperto, Claudio Gatti, giornalista investigativo del nostro giornale. Claudio, buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto te l'aspettavi che ci fossero 11 milioni di documenti segreti che venissero fuori e che ci fosse questo grande scandalo a Panama? Si era saputo in giro nel mondo dei giornalisti investigativi che ci sarebbe stata una nuova ondata di stile WikiLeaks, che riguardava un centro di produzione, di creazione di società di facciata. Ecco, società di facciata, Mossack Fonseca ha creato, mi pare, 241.000 società di facciata, cioè una cosa enorme, una cosa endemica. Però qui, ecco, io vorrei cercare di capire, perché non c'è nulla di illegale nel creare una società a Panama, purché tu la dichiari, la denunci. Io ho la mia società lì perché faccio del business a Panama, oppure perché ho bisogno di un punto d'appoggio internazionale, giusto? Assolutamente sì, eccetto il fatto che la maggior parte di queste persone non avevano alcuna attività, alcun business a Panama, e spesso e volentieri queste società erano create o dalle stesse banche o da persone che dovevano aprire conti in banca, che volevano proteggere la propria privacy, avere riservatezza, quindi avere un conto non intestato a proprio nome, ma a nome di una società creata appositamente. Ecco, e questo perché? Perché in effetti direi che la parte più oscura, più di violazione della legge, è se non solo non erano dichiarati, ma se venivano usati in modo illegale. Ecco, qual è secondo te la dinamica dietro alcuni di questi conti? Corruzione, denaro sporco da riciclare, evasione fiscale, droga? Tutto quello che hai elencato, nel senso e che, di più. Che assolutamente sì, nel senso che questi in realtà non sono dei veri e propri studi legali, sono di fabbriche di società di facciata. In inglese si chiamano Trust and Company Service Providers, sono dei centri di produzione di società che non hanno una vera funzione e che non operano, forniscono il servizio dell'anonimato, questo in pratica. Per questo non sono veramente legate ad attività economiche. Sono legate a conti in banca per lo più o a la proprietà di altre società. Ecco, però noi sappiamo che ci sono una gran quantità di società che hanno dei conti in dei paradisi fiscali, chiamiamoli così, operano in trasparenza e lo fanno per cercare di minimizzare il loro carico fiscale. Ecco, secondo te quante di queste società a Panama facevano questo e quante invece operavano in un territorio assolutamente illegale? So che è impossibile dirlo, ma è difficile dire, ma la frequenza con la quale questo studio legale in particolare, Mossack e Fonseca, che poi è una fusione di due studi preesistenti, normalmente emerge in situazioni di corruzione. Cioè, soltanto in Italia, emersa in un'inchiesta su cui ho lavorato, che aveva a che vedere con l'utilizzo di fondi neri legati al mondo dell'industria militare, emersa nell'inchiesta sui fondi pagamenti al ministro del petrolio algerino, che aveva una rete di società attraverso un suo collaboratore, molte delle quali erano a Panama ed erano state create, costituite da Mossack Fonseca. Quindi è uno studio famoso per diciamo servire lo scopo di chi deve nascondere soldi. E secondo te, se ne verrà capo in mezzo a questi milioni di documenti, si riuscirà a capire davvero chi era contro la legge, chi operava fuori legge e chi invece magari operava normalmente, o è difficile? Beh, la cosa più interessante è che grazie a queste mail si è venuto a sapere chi erano i veri proprietari di questi fondi, di questi conti, di queste società. Poi dipende, si tratta di vedere come queste società siano state alimentate da denari, di quale provenienza. Ecco, in parallelo negli Stati Uniti si parla molto dello scandalo brasiliano, c'è un rischio di impeachment per Dilma Rousseff, però c'è, come dicevo prima, anche come dire, il rischio di violazione della legge per corruzione da parte dell'ex presidente Lula. Ecco, che sensazione hai leggendo questi scandali continui? Un paese come il Brasile, poi, che doveva essere uno dei grandi traini per il futuro del mondo. Il Brasile, che sembrava finalmente fosse diventato il paese del presente, non più solo del futuro per sempre, come disse una volta De Gaulle, in realtà si vede una storia molto simile a quella di Mani Pulite. Lo stesso giudice inquirente, questo Moro, è stato anche in Italia a studiare l'inchiesta di Mani Pulite, e è molto simile perché anche lì c'è stato, diciamo, un governo e delle aziende pubbliche usate per finanziare i partiti. Ecco Claudio, c'è una domanda di fondo: ma come mai nell'era di internet, in cui poi tutto diventa molto più trasparente, ci sono personaggi che continuano a cedere a questa tentazione? Posso capire, sai, l'avessero fatto decenni fa magari per proteggersi da rischi politici, però oggi personaggi che lavorano, di tutto rispetto, in paesi industrializzati, ma perché devono andare a prendere questo rischio? Secondo te arriverà il momento in cui questo finirà, oppure continueranno a farlo? Io penso assolutamente no. L'avidità non credo che sarà mai un qualcosa di superabile, e soprattutto l'impressione che più passa il tempo più si trovano nuovi modi, nuovi metodi, nuovi strumenti per garantirsi la segretezza e poter continuare a avere questo tipo di protezione e di ricorrere a queste misure fuori dalla legge. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Claudio, siamo qui ai microfoni insieme e la canzone del giorno devi scegliere te. Abbiamo parlato di illegalità, cosa ti viene in mente? Visto il tema, direi che si può scegliere Private Investigation dei Dire Straits, che sono una band inglese che ha avuto il successo negli anni 70, agli anni del Watergate. Certo, Dire Straits, Private Investigation, tra l'altro parole straordinarie, forse non le seguirete, però a un certo punto si dice, questa è la mia inchiesta, non è un'inchiesta pubblica, stiamo controllando i rapporti, stiamo controllando i tradimenti, stiamo controllando le bugie, e che cosa se ne deduce? Beh, ecco la canzone dei Dire Straits, Private Investigations. It's a mystery to me. The game commences for the usual fee, plus expenses, confidential information. It's in a diary. This is my investigation. It's not a public inquiry. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!